Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Circa un anno dopo il ritorno di Luigi XVIII, vi fu una visita dell'ispettore generale delle prigioni. Dal fondo della sua segreta Dantès sentì tutti i preparativi, che in alto producevano molto fracasso, ma che in basso sarebbero stati rumori impercettibili per orecchie diverse da quelle di un prigioniero abituato a discernere nel silenzio della notte il ragno che tesse la sua tela e la caduta regolare della goccia d'acqua che impiega un'ora a formarsi sul soffitto della segreta. Indovinò che fra i vivi stava accadendo qualcosa di straordinario. Lui abitava una tomba da così tanto tempo da potersi considerare morto. L'ispettore stava visitando, una dopo l'altra, stanze, celle e segrete. Molti prigionieri furono interrogati. L'ispettore domandava come erano nutriti e se avevano lamentele da fare. Essi rispondevano unanimemente che il vitto era pessimo e che reclamavano la libertà. L'ispettore domandava allora se non avessero altro da chiedere. Essi scossero la testa. Quale altro bene, oltre la libertà, può chiedere un prigioniero? L'ispettore si voltò sorridendo e disse al governatore: «Non so perché ci fanno fare questi giri inutili. Chi vede un prigioniero ne vede 100. Chi ascolta un prigioniero ne ascolta 1000. È sempre la stessa cosa, malnutriti e innocenti. Ve ne sono altri?» «Sì, sì, abbiamo prigionieri pericolosi o pazzi che teniamo nelle segrete. Vediamo», disse l'ispettore con un'aria di profonda stanchezza. «Facciamo il nostro mestiere fino in fondo. Scendiamo nelle segrete.» «Aspettate», disse il governatore. «Aspettate che si mandino a cercare almeno 2 uomini. I prigionieri a volte, non fosse che per il disgusto della vita e per farsi condannare a morte, commettono gesti di inutile disperazione. Potreste cadere vittima di uno di questi gesti.» «Allora, prendete le precauzioni», disse l'ispettore. Fecero chiamare 2 soldati e cominciarono a scendere per una scala così umida, così infetta, così ammuffita, che niente quanto il passaggio in un luogo simile offendeva così sgradevolmente a un tempo la vista, l'olfatto e la respirazione. «Ah!» fece l'ispettore fermandosi a metà della scala. «Ma chi diavolo può alloggiare qui? Un cospiratore dei più pericolosi e che ci è stato segnalato particolarmente come un uomo capace di tutto. È solo? Certamente. Da quanto tempo si trova qui?» «Da circa un anno. Ed è stato messo nella segreta fin dal suo arrivo?» «No, no, signore, soltanto dopo aver tentato di uccidere il carceriere incaricato di portargli cibo.» «Ha tentato di uccidere il carceriere?» «Sì, signore, quello che ci sta facendo luce. Non è vero, Antoine?» chiese il governatore. Ha cercato di uccidermi», rispose il carceriere. Già, ma è pazzo quest'uomo?» «È anche peggio», disse il governatore. «È un demonio.» «Volete che si faccia ricorso?» chiese l'ispettore al governatore. «È inutile, signore. È già punito così d'altronde al momento. È quasi completamente pazzo. E in base all'esperienza che ci deriva dall'osservazione, prima che passi un altro anno, lo sarà del tutto.» «In fede mia, tanto meglio per lui», osservò l'ispettore. «Una volta completamente pazzo, soffrirà meno.» Come si vede, questo ispettore era un uomo pieno di umanità e ben degno delle funzioni umanitarie che esercitava. «Avete ragione, signore», disse il governatore. «E la vostra riflessione prova che avete studiato profondamente l'argomento. Abbiamo in una segreta che è lontana da questa una 20 di piedi e nella quale si scende per un'altra scala un vecchio abate, ex capo di partito in Italia, che è qui fin dal 1811 e gli ha dato di volta il cervello verso la fine del 1813 e da quel momento fisicamente non è più riconoscibile, piange, ride, dimagrisce, ingrassa. Volete vedere lui invece di questo? La sua pazzia è divertente e non vi rattristerà.» «Li vedrò entrambi», rispose l'ispettore. «Bisogna fare il proprio dovere con coscienza.» L'ispettore stava facendo il suo primo giro e voleva fare una buona impressione alle autorità. «Entriamo dunque prima qui», aggiunse. «Volentieri», rispose il governatore e fece un segno al carceriere che aprì la porta. Allo stridere delle massicce serrature, al cigolare dei catenacci arrugginiti, Dantès, accovacciato in un angolo della sua segreta, dove riceveva con gioia indicibile il tenuissimo raggio di luce che filtrava attraverso gli stretti spiragli dell'inferriata, alzò la testa. Alla vista di uno sconosciuto, illuminato dalle torce che portavano i due carcerieri, al quale il governatore parlava con il cappello in mano, Dantès indovinò di chi si trattava e, vedendo finalmente presentarsi un'occasione per implorare un'autorità superiore, balzò in avanti con le mani giunte. I carcerieri abbassarono subito la baionetta, credendo che il prigioniero si lanciasse verso l'ispettore con cattive intenzioni. L'ispettore stesso arretrò. Dantès comprese di essere stato descritto come un uomo pericoloso. Allora concentrò nello sguardo tutta la mansuetudine e l'umiltà che un cuore umano può contenere e, esprimendosi con una specie di eloquenza pietosa che meravigliò i presenti, cercò di toccare l'anima del visitatore. L'ispettore ascoltò il discorso di Dantès fino alla fine. In breve, disse, cosa chiedete? Chiedo quale delitto ho commesso. Chiedo di essere portato davanti ai giudici. Chiedo che venga istruito un processo. Chiedo infine di essere fucilato se sono colpevole, ma di essere rimesso in libertà se innocente. Siete ben nutrito? Domandò l'ispettore. Sì, credo, non ne so niente, ma mi importa poco. Quello che deve importare non solo a me, disgraziato prigioniero, ma a tutti i funzionari che amministrano la giustizia, al re che ci governa, è che un innocente non sia vittima di un'infame denuncia e non muoia in catene maledicendo i carnefici. Voi siete molto umile oggi, disse il governatore. Però non siete stato sempre così. Parlavate in modo diverso, mio caro amico, il giorno che tentaste di uccidere il vostro carceriere. È vero, signore, è vero, disse Dantès. E domando umilmente perdono a quest'uomo che è sempre stato buono con me. Ma che volete? Ero pazzo, ero furioso. E non lo siete più? No, no, signore. Perché la prigionia mi ha piegato, umiliato, annichilito. Mi trovo qui da così tanto tempo. Tanto tempo? E quando foste arrestato? Chiese l'ispettore. Il 28 febbraio 1815, alle 2 del pomeriggio. L'ispettore calcolò. Siamo al 30 luglio 1816. Siete prigioniero solo da 17 mesi. Solo 17 mesi? Esclamò Dantès. Ah, signore, voi non sapete cosa sono 17 mesi di prigione. Sono 17 anni, 17 secoli, specialmente per un uomo che come me stava toccando la felicità, per un uomo che come me era sul punto di sposare la donna amata, per un uomo che vedeva aprirsi davanti a sé una carriera onorevole e al quale è mancato tutto in un attimo, che nel mezzo del giorno più bello è caduto nella notte profonda, che ha visto la sua carriera distrutta e ignora se colei che lo amava lo ami ancora, ignora se il suo vecchio padre sia morto o vivo, Abbiate dunque pietà di me, signore, e domandate per me non l'indulgenza, ma il rigore, non una grazia, ma una sentenza. Dei giudici, signore. Io non domando che dei giudici. Non si possono negare dei giudici a un accusato. Va bene. Mi informerò, promise l'ispettore. Signore, gridò Dantès, capisco dal tono della vostra voce che siete commosso. Signore, ditemi che posso sperare. Non posso dirvi questo, rispose l'ispettore. Posso soltanto promettervi di esaminare il vostro incartamento. Ah, allora, signore, sono libero, sono salvo. Chi vi ha fatto arrestare? Domandò l'ispettore. Il signor di Villefort, rispose Dantès. Vedetelo e parlate con lui. È un anno che il signor di Villefort non è più a Marsiglia, ma a Nîmes. Ah, il signor di Villefort aveva qualche motivo di odio contro di voi? Nessuno, signore. Anzi, era molto benevolo con me. Mi potrò dunque fidare delle note che ha lasciato sul vostro conto o che possa trasmettermi? Totalmente, signore. Sta bene. Aspettate. La porta si richiuse. Ma la speranza, scesa con l'ispettore, era rimasta nella segreta di Dantès. Volete vedere il registro dei carcerati subito? Domandò il governatore. O passare alla segreta dell'abate? Finiamola prima con le segrete, rispose l'ispettore. Se risalissi alla luce, forse non avrei più il coraggio di continuare la mia triste missione. Ah, questo non è un prigioniero come l'altro, e la sua pazzia rattrista meno della ragionevolezza del suo vicino. E di che pazzia si tratta? Una pazzia strana. Si crede possessore di un immenso tesoro. E come si chiama questo milionario? Abate Faria. Il numero 27, disse l'ispettore. Precisamente. Antoine, aprite. Il guardiano obbedì. E lo sguardo incuriosito dell'ispettore penetrò nella segreta dell'abate pazzo. Era così che di solito veniva chiamato il prigioniero. In mezzo alla cella, in un cerchio tracciato sul pavimento con un pezzo di intonaco staccato dal muro, era disteso un uomo seminudo, tanto le sue vesti erano lacere. Stava tracciando in questo cerchio delle linee geometriche diritte e pareva in tal modo occupato a risolvere il suo problema, come Archimede nel momento in cui fu ucciso da un soldato di Marcello. Non si mosse al rumore che fece la porta della segreta nell'aprirsi e non sembrò risvegliarsi che quando la luce delle torce illuminò di un forte chiarore l'umido suolo su cui lavorava. Allora si voltò e vide con sorpresa la numerosa compagnia che era scesa nella sua segreta. Subito si alzò, prese una coperta gettata ai piedi del suo povero letto e si coprì immediatamente per comparire in uno stato più decente agli occhi di quegli estranei. «Cosa chiedete?» disse l'ispettore senza variare la sua formula. «Io, signore?» disse Faria con aria sorpresa. «Io non chiedo niente!» «Sono venuto qui per domandarvi, come ho già fatto, se avete qualche lamentela da fare su come siete nutrito e alloggiato.» «Il cibo è uguale in tutte le prigioni, cioè molto cattivo», rispose Faria. «Quanto all'alloggio, come vedete, è umido e malsano, ma per una segreta non c'è male. Ora, non è di questo che dobbiamo parlare, ma di rivelazioni della più grande importanza e del massimo interesse che ho da fare al governo.» «Disgraziatamente, mio caro signore», intervenne il governatore, «sappiamo a memoria quello che volete dirci. Si tratta dei vostri tesori, non è vero?» «Il tesoro esiste realmente», disse Faria rivolgendosi all'ispettore, «e sono pronto a firmare un contratto con voi, in virtù del quale mi condurrete al luogo che indicherò. Si scaverà la terra sotto i nostri occhi e se io mento, se non viene ritrovato niente, ebbene mi condurrete in questo medesimo carcere dove resterò eternamente e dove morirò senza chiedere più niente né a voi né a nessuno.» Il governatore si mise a ridere. «È lontano il vostro tesoro?» domandò. «A circa 100 leghe da qui», rispose Faria. «La cosa non è mal pensata», disse il governatore. «Se tutti i prigionieri volessero divertirsi a fare una passeggiata con i loro guardiani per 100 leghe, e se i guardiani acconsentissero a fare una simile passeggiata, sarebbe un eccellente pretesto per i prigionieri di prendere la via dei campi alla prima occasione. E durante un viaggio simile, l'occasione si presenterebbe certamente.» «È un pretesto conosciuto», aggiunse l'ispettore. «E il signore non ha neppure il merito dell'invenzione.» Poi, volgendosi all'abate, disse: «Vi ho chiesto se siete ben nutrito.» «Signore», rispose Faria, «giuratemi su Cristo di liberarmi se vi avrò detto la verità e vi indicherò il luogo preciso dove è nascosto il tesoro.» «Siete ben nutrito?» ripeté l'ispettore. «Signore, così voi non correrete alcun rischio e capite bene che non è per procurarmi un'eventualità di fuga, perché io resterò prigioniero fino a che abbiate fatto il viaggio.» «Voi non rispondete alla mia domanda», continuò con impazienza l'ispettore. «Né voi alla mia», gridò l'abate. «Siate dunque maledetto come tutti gli altri insensati che non mi hanno voluto credere. Voi non volete il mio oro, io lo custodirò. Voi mi rifiutate la libertà, Dio me la darà. Andate! Non ho più nulla da dire.» E l'abate, gettando la coperta, raccolse il suo pezzo di intonaco e andò a sedersi di nuovo in mezzo al cerchio, dove continuò le sue linee e i suoi calcoli. Thank you. L'abate Faria, divenuto pazzo in prigione, era condannato dalla sua stessa follia a una prigione perpetua. Quanto a Dantès, l'ispettore mantenne la parola. Risalendo nell'ufficio del governatore, si fece mostrare il registro dei carcerati. La nota concernente il prigioniero era questa: Edmond Dantès, bonapartista accanito, da tenersi in segreta e sotto la più stretta sorveglianza. Quella nota era di un'altra grafia e di un inchiostro diverso dal resto del registro. Ciò provava che era stata aggiunta dopo l'incarcerazione di Dantès. L'accusa era troppo esplicita per tentare di combatterla. L'ispettore dunque scrisse a margine: niente da fare. Questa visita aveva, per così dire, rianimato Dantès. Da quando era entrato in prigione aveva dimenticato di contare i giorni. Ma l'ispettore gli aveva fornito una nuova data e lui non l'aveva dimenticata. Scrisse sul muro con un pezzo di gesso staccato dal soffitto: 30 luglio 1816. E a partire da quel momento fece ogni giorno un segno affinché la misura del tempo non gli sfuggisse più. I giorni passarono, poi le settimane, quindi i mesi. Durante quei mesi niente mutò nel regime della sua carcerazione e non giunse alcuna notizia consolante. Il carceriere, interrogato, rimase muto come al solito. Dantès cominciò a dubitare dei suoi sensi, a credere che ciò che prendeva per un ricordo della sua memoria non fosse altro che un'allucinazione della mente e che quell'angelo consolatore che era apparso nella sua prigione vi fosse disceso sopra le ali di un sogno. In capo a un anno arrivò un nuovo governatore. Sarebbe stato troppo lungo per lui imparare a memoria il nome di tutti i suoi prigionieri e si fece indicare soltanto i loro numeri. Il disgraziato giovane cessò di essere chiamato con il nome Edmond o con il cognome Dantès. Venne chiamato il numero 34. Dantès passò per tutti i gradi di infelicità che provano i prigionieri dimenticati in una prigione. Il suo spirito si fece tetro. Una nube si addensò davanti ai suoi occhi. Dantès era un uomo semplice e senza educazione. Il passato era rimasto per lui coperto da quel velo denso che solo la scienza solleva. Non poteva, nella solitudine della sua segreta e nel deserto del suo pensiero, ricostruire le epoche passate, rianimare i popoli estinti, rifabbricare le antiche città ingrandite dall'immaginazione e dalla poesia, e che passavano davanti agli occhi gigantesche e illuminate dal fuoco del cielo come nei quadri babilonesi di Martin. Non aveva che il suo passato così breve e il suo presente così triste, il suo avvenire così incerto. 19 anni di luce su cui meditare forse in una notte eterna. Nessuna distrazione poteva quindi venirgli in aiuto. Il suo spirito energico, che non avrebbe amato che di prendere il volo attraverso le età, era forzato a restare prigioniero come un'aquila in gabbia. Egli allora si aggrappò a una sola idea, a quella della sua felicità distrutta senza un motivo apparente e per una fatalità inaudita. Gli ritornava in mente la lettera di denuncia che aveva visto, che gli aveva mostrato Villefort. Diceva a se stesso che era l'odio degli uomini e non la vendetta di Dio che lo aveva immerso nell'abisso in cui si trovava. Invocava per questi uomini sconosciuti tutti i supplizi di cui la sua ardente immaginazione poteva farsi un'idea e trovava che i più terribili erano ancora troppo leggeri e soprattutto troppo brevi per loro, perché dopo il supplizio veniva la morte e nella morte c'era, se non il riposo, almeno l'insensibilità del corpo che gli somiglia. A forza di dire a se stesso, a proposito dei suoi nemici, che nella morte vi era la calma e che chi vuole punire crudelmente deve farlo con altri mezzi che non la morte, cadde nella tetra immobilità dell'idea del suicidio. Arrivato a questo punto, Edmond trovò qualche consolazione in questo pensiero. Tutti i suoi dolori, tutte le sue sofferenze, questo corteggio di spettri che essi si trascinavano dietro,